che non si può stare immobili. È che non si può stare ai margini. E che non si può stare immobili.